Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 8. Il secondo avvento. Nella cucina del palazzone popolare alla periferia della capitale, la famiglia Z era a tavola. Si godeva la cena facendo poco caso alla musica trasmessa dalla TV. «Apa, che men presti a Ferrari stasera?» «Sì, così arrivi da cartocciata in albero come a volta scorsa. E io come ci arrivo in fabbrica poi? Col tuo motorino rubato?» «E dai, è che non sapemo che fa qua attorno. Ce fosse almeno una sala giochi. Meno male che domani giochiamo noi.» «Ao, non vedo l'ora di fargli un mazzo tanto!» Il capofamiglia si sbracciò in un gesto eloquente. Ricolmo di adrenalina, sarebbe stato lui in persona, in campo, a decidere le sorti della partita. «Apa, siamo lì meglio del monno. Sai al casino che piazziamo dopo?» «E magari ci scappa pure un altro motorino rubato», riflettei in un'improvvisa ispirazione. «E dai, mai che posso ascoltare qualcosa, non sento niente!» La figlia, non più adolescente, osò imporre la sua presenza. «Ma state zitta, che tutti quei fregnacciari dei tuoi idoli sozzozzi, degenerati e pure froci!» «E poi che cazzo di concerto è questo?» ghignò tra denti e spaghetti il figlio. «A me sembra roba dei comunisti!» «Ma che c'entra? Ma te sei proprio uno stronzo, sai?» Il suono che seguì queste parole fu quello di un ben assestato e sonoro ceffone del capofamiglia alla figlia non più adolescente. «Tu come cazzo ti permetti di parlare così? Mo te rovescio come un carzino, altro che...» Il capofamiglia balzò in piedi spingendo la sedia indietro con il poderoso deretano e alzò il braccio, ma rimase bloccato a metà in uno storpio saluto a mano tesa. Nella stanza si udiva solo un lontano brusio proveniente dal televisore. Il barboncino, accucciato a occhi bassi accanto alla ciotola dell'acqua, guaiva preoccupato. Il dio dell'Antico Testamento era un vortice di nubi e fuoco. Stava guardando acqua di cane. Parlava proprio a lui. «Io sono qui per voi», disse. I coniugi Y erano riuniti a cena nel patio della loro villa al mare, quella con piscina. L'acqua salata secca orribilmente la pelle. Il reverbero opalescente della luce riflessa dall'acqua immobile rischiarava la penombra del giardino. Da una televisione sistemata su un carrello a ruote, il telegiornale in alta definizione inondava generosamente l'aria di violenze, angosce, disperazioni varie da tutto il mondo. «È di 46 morti e 106 feriti il bilancio dell'attentato eseguito da una donna kamikaze nella zona di Bab al-Sham, parte est di Baghdad.» «Sempre le solite notizie. Ma non vedi? Cosa ti dico sempre io? Sono dei selvaggi. Non sanno fare altro che scannarsi tra loro, e non solo tra loro. Davvero mi chiedo che aspettino gli americani a tirare via tutto con qualche bomba atomica.» «E noi, allora, che li accogliamo qui, prima dovremmo bombardare il nostro governo che offre asilo a cani e porci. Ci ritroveremo le loro bombe in casa nostra, grazie anche ai poeti e ai comunisti. Ma le cose cambieranno, e come se cambieranno!» Lo speaker del telegiornale, indifferente alle loro alte strategie, aveva già cambiato argomento. «Più di 200.000 haitiani hanno perso la vita a causa del terremoto che ha devastato Port-au-Prince.» Però, io dico, hai notato? I terremoti più devastanti capitano nelle terre più povere. E più malvagie, direi io. Hai visto il terremoto in Iran? E quello in Cina? E anche Haiti non scherza affatto, hai presente il voodoo? Vero. E qui abbiamo avuto il terremoto di Messina e l'eruzione del Vesuvio. Mafia e camorra. Già. Poi lo tsunami, proprio sulle coste del turismo sfrenato e dello sfruttamento minorile. Ma il terremoto in Abruzzo non mi risulta che ci siano mafiosi lì. Oh beh, che sciocchino. Forse quello è stato l'unico evento davvero naturale. Entrambi scoppiarono a ridere. Lo schermo ora mostrava il rottame accartocciato di una macchina contro il muro di una casa. Momenti di tensione questa mattina a Tor Bella Monaca, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale. È già molto che non era il solito rumeno ubriaco che ammazzava 4 persone sulle strisce. Quei bastardi. Vengono qui a violentare le nostre donne, ammazzarci sulle strade e nelle rapine. Dovrebbero essere rinchiusi nei campi di concentramento, perché se li rispedisci a casa loro, quelli, poi dopo 3 giorni, sono ancora qui. Subito al muro, tutti. Molto alta, come sempre, l'affluenza al concerto del 1° maggio di stasera. Ci colleghiamo subito in diretta con la nostra inviata a Piazza di Porta San Giovanni in Roma. Ah, che bello! Finalmente il festival dei comunisti straccioni, ci mancava solo questo. L'inquadratura mostrava una folla festante. Sullo sfondo il palco dove il gruppo stava suonando. All'improvviso la musica cessò e non ci fu nessun commento stavolta. Nella stanza si fece silenzio, solo il brusio che proveniva dal televisore. Le Anne giunsero le mani davanti al Buddha che spargeva luminosi fiori violetti nell'aria. «Io sono qui per voi!» Le guardò e sorrise. L'ampia sala del refettorio del convento rimbombava disadorna sotto le smunte luci al neon. Solo 3 rigogliosi ficus ornamentali tentavano di rendere il posto meno squallido. Le consorelle dell'ordine delle suore orsoline, come sempre, avevano iniziato l'umile pasto in letizia e armonia. Suor Irene aveva scodellato dal pentolone fumante la densa zuppa e le pacate chiacchiere delle suore si erano alzate impercettibilmente di tono a sottolineare la semplice gioia del momento. Era stata una giornata pesante. La miseria umana non aveva limiti né di tempo né di quantità e loro facevano del loro meglio per alleviare la pena di questo piccolo mondo. Dopo la preghiera di ringraziamento, iniziarono il loro pasto parlando delle esperienze della giornata. Sorella Maria Teresa, appena rientrata da un viaggio a Barcellona, raccontava le sue esperienze in treno. E così sono entrati nella cabina questi 2 giovanotti così strani. Si vedeva subito che erano diversi, non tanto dai vestiti, ma dallo sguardo, non so, come agitato. All'inizio sorella Rosilde aveva anche timore a dormire con loro nella stessa cabina a cuccette, ma si sono dimostrati 2 bravi ragazzi, nonostante l'aria equivoca. Secondo me erano gay, che Dio li perdoni, disse l'85enne suor Rosilde con un sorriso birichino. Quanta gioventù traviata! Ma che ci trovano a sguazzare nella depravazione? Il demonio ne fa carne da macello, intervenne suor Regina. Sorelle, non dovremmo mancare di speranza. Se il demonio miete le sue vittime è perché questo mondo è sempre stato suo. Il nostro amato Salvatore ci guida costantemente attraverso le insidie del maligno e noi stesse, dunque, dovremmo impegnarci ancor più a fondo per riportare questa gioventù verso la Santa Chiesa, disse la Madre Superiora cercando di rasserenare la discussione. Già, sorella madre, parole sante, ma come fare ad attirare questi satanassi nel grembo di Madre Chiesa? Essi sono costantemente persi dietro alla lussuria più sfrenata, ai vizi più inconfessabili, si crogiolano nella loro depravazione e non meritano altro che il demonio se li porti via tutti. Ma sorella Regina, e la misericordia? La misericordia è per chi la merita, tuonò suor Regina. Ma voi lo sapete cosa fanno quegli animali fra loro? Sesso a scuola, droghe, alcol, pasticche. Conoscete la musica che ascoltano? Cibo del demonio, ecco cos'è. Fatta per intorbidire le menti e farle scivolare nell'abisso del male. Un richiamo irresistibile per quelle anime scure. Guardate, il telegiornale sta trasmettendo uno di quei loro satanici concerti. Aspettate, aspettate che alzo il volume, così vi renderete conto di cosa parlo. Sua regina si alzò e si diresse verso la televisione posata su una mensola della parete. Ma, sorella regina, sappiamo benissimo cosa ascoltano. Non c'è bisogno che... Sua regina aveva appena alzato il volume e in quell'istante il Devil appianò ogni contrasto. Ogni discussione cessò di avere ragione di esistere. Tutto era perfetto, tutto era meraviglioso, sembrava quasi il paradiso. Il nero vide il dio della Cappella Sistina vestito con tunica e dito proteso verso di lui. «Io sono qui per voi», intimava. Ahmed Hassan stava osservando sotto una lampada gli schemi elettrici per collegare i fili al detonatore. Era la prima volta che costruiva una cintura esplosiva, ma lo aveva già visto fare tante volte giù al campo, che avrebbe potuto farlo tranquillamente a occhi chiusi, però doveva essere prudente. Aveva sempre disprezzato quei fratelli che si facevano goffamente saltare in aria prima del tempo, mettendo persino in pericolo la loro copertura. Doveva essere il primo vero attacco a questa nazione degenere. Le loro sgualdrine svestite, i loro idoli blasfemi, l'oppressione che il loro modo di vivere gettava sulla sua gente. Si immaginò ancora una volta mentre arrivava nel Jenna in una fiammata esplosiva, poi le uri che lo circondavano, i fiumi di latte e miele che lo attendevano in una gioia senza fine. Poiché lui era un martire nel nome di Dio e quella sarebbe stata la sua ricompensa. Si assicurò che i terminali dei cavi fossero ben puliti e iniziò a collegarli. Muhammad Hassad lo stava osservando. Era lui che avrebbe dovuto azionare il radiocomando per far esplodere Ahmed. Né troppo presto né troppo tardi. Questo avrebbe permesso ad Ahmed di avvicinarsi al bersaglio con le mani alzate in un gesto di saluto, rendendo evidente la sua apparente innocuità. Sarebbe stato anche un gesto poetico, oltre che politico. Sarebbe esploso con un sorriso rivolto alle sue vittime. Ne aveva tanti come Ahmed, tutti impazienti di dare un senso alle loro inutili giornate. Eroi in serie, macchine devastate, programmate per devastare. Che strumento l'uomo, la macchina più flessibile e potente. Avevano ancora un'ora almeno prima di partire per l'appuntamento con le Uri. Ahmed era arrivato al momento più delicato. Stava inserendo l'innesco nel detonatore. Muhammad accese la radio cercando con la manopola delle frequenze qualche canale di notizie. Voleva restare aggiornato ed essere sicuro che nessun imprevisto cambiasse il programma. Girando la manopola fra ronzii, pubblicità, veloci fantasmi di parlato da DJ, violini e orchestre, per un attimo fece capolino una frazione di un concerto, proprio nel momento in cui un certo dispositivo veniva attivato da una certa persona. La mano di Muhammad si bloccò con la manopola in quella posizione. Purtroppo non così avveniva per la mano di Ahmed, che ebbe un sussulto nel momento imprevisto del rapimento dell'effetto God. Nella stanza vi fu silenzio dopo la fiammata esplosiva. Le Uri erano arrivate per danzare con le ceneri dei due martiri. «Io sono qui per voi». Le parole pronunciate da Drago nel microfono rimasero a lungo sospese in aria sulla folla radunata a Piazza San Giovanni. Rimbombavano silenziose in ogni mente. «Io sono qui per voi», ripeté appena tremolante la voce di Mirko. La funzione d'onda del Devil aveva impostato gli spin neuronali sulla visione mistica. Tutti udirono e non dimenticarono mai più la voce del vero Dio, Allah, Buddha, Amaterasu. Con qualsiasi nome lo chiamassero, era il suono dell'Onnipotente. Tutti videro una morbida luce dorata emanare dalle due figure sul palco, come esseri divini illuminati da un sole interno, senza dubbio la luce del cielo. Ocelot e Riviera si avvicinarono alla ribalta del palcoscenico. Alcune persone in prima fila si inginocchiarono subito, seguite da quelle intorno a loro. Fu come vedere un'onda propagarsi in una piscina. Si udiva solo il frusciare dei vestiti della gente che si inginocchiava. Mirko ebbe la subitanea sensazione che l'intensità della genuflessione fosse in gran parte determinata dal peso delle loro angosce. Drago guardava il pubblico con un sorrisetto beffardo. Poi sollevò un braccio, mostrando al pubblico e alle telecamere un foglio di carta arrotolato come un antico papiro. Sciolse il nastro nero che lo teneva avvolto, portò solennemente il foglio all'altezza degli occhi, guardò grave il mare scuro di folla, poi tornò a guardare il papiro aggrottando le sopracciglia e si avvicinò al microfono con aria sinistra. Infine, dopo alcuni secondi di attesa, mimando un'espressione di stupore, disse: «Amatevi». Poi, portandosi un dito alla tempia, fece come il gesto di un bambino che ha appena capito la soluzione di un problema. Tirò fuori dalla tasca un piccolo giocattolo, un robottino verde e bianco di plastica che appoggiò sulle assi del palco. Ci appoggiò accanto il microfono e premette la testa del congegno che, illuminandosi di rosso, iniziò a riprodurre «All you need is love». Le batterie a lunga durata e la funzione repeat avrebbero garantito ore e ore di sana liturgia. Lui e Mirko si allontanarono senza guardarsi indietro mentre spegneva il Devil. Lentamente, emergendo da una montagna di colla invisibile, le persone ricominciarono a muoversi. Prese dalla musica, si stavano formando alcune coppie che accennavano a qualche goffo passo di valzer. Altri si abbracciavano cantando insieme agli scarafaggi a gruppi di due, tre grappoli umani in costante aumento. Nelle abitazioni le cose erano appena più complicate. Nella cucina del palazzone popolare alla periferia della capitale, la famiglia Z era ancora a tavola. Uno sguardo bovino aveva sostituito l'espressione irata del capofamiglia. Stava ora fissando la sua mano alzata mezz'aria, come se si stesse chiedendo com'era finita lì. Il figlio adolescente sembrava stordito. Un sorriso ebete gli si era disegnato sul volto. Di scatto si alzò e andò ad abbracciare la sorella, che era l'unica che sembrava non avere risentito particolarmente dell'effetto God. La cinse con le braccia, stringendola forte, mentre il capofamiglia sopraffatto era caduto in ginocchio e aveva iniziato a uggiolare sommessamente, spaventando il barboncino che ritenne più prudente uscire dalla cucina. La famiglia Y era riunita a cena nella villa con piscina. Ancora il reverbero azzurro dell'acqua illuminava il giardino, ma non più allegro e rassicurante come prima. La fredda luce marcescente aveva steso un manto di ghiaccio sulla casa e su di loro. Si ritrovarono a guardare i costosi quadri che adornavano la sala da pranzo, i tappeti, il pregiato parquet, il televisore al plasma da 90 pollici. Tutto ora emanava una luce sinistra e malefica. Si accorsero improvvisamente che la casa era piena di animali affamati, che per lungo tempo avevano banchettato con loro stessi nel ruolo di inconsapevoli manicaretti, staccando un pezzettino di carne e di cuore per volta. Bocconcino dopo bocconcino li avevano lasciati con i fantasmi di loro stessi, succubi e vittime degli appetiti nascosti nelle cose. La sala del refettorio del convento era ancora povera e disadorna, ma rimbombava di musica. Canti e grida di gioia provenivano da quella che fino a pochi minuti prima era stata una tranquilla cena tra suore. Alcune piangevano e ridevano contemporaneamente, altre semplicemente ballavano da sole o in gruppo. Chi si fosse trovato a passare sotto quelle mura avrebbe creduto che lì dentro si stesse svolgendo una festa di adolescenti, tanto era lo schiamazzo che ne proveniva. Suor Regina aveva alzato il volume della televisione. Ballava davanti allo schermo rapita dalla musica. Le sembrava un inno alla vita, sfolgorante di selvaggia elettricità. Rapita in se stessa, si sentiva davvero viva per la prima volta. Non vedeva l'ora di uscire nel mondo ad annunziare la lieta novella, che ora parlava di gioia per il mondo, di desiderio di gustare fino all'ultima stilla il nettare dell'esistenza, riconoscenti del dono di vivere. Uscì dalla stanza e si diresse verso il portone. Aveva una missione da compiere. Le strade si erano riempite di gente. Strano, non era ancora ora per la città della passeggiata serale verso il mare, ma sua regina fu lieta di uscire danzando in mezzo alla folla. Nessuno poi pareva giudicare strano che un'anziana suora ballasse al ritmo di una musica che solo lei sentiva. Non c'era mai stata tanta gente in strada dall'ultima volta che la nazionale aveva vinto i mondiali. Come in un raduno di vecchi amici, dopo anni di lontananza, tutti erano ansiosi di comunicare, conoscere gli altri, condividere desideri, pensieri, emozioni, tutti interessati ad ogni cosa che li circondava, come se le vedessero per la prima volta. Anche i ragazzi della Resi erano scesi in strada. Il pescatore non riusciva a smettere di ridere. Gli sembrava che mentre si era addormentato fosse arrivata la fine del mondo. Il nero stava seriamente ripensando all'opportunità di smetterla una volta per tutte con le canne. Le anne, per una volta, ebbero la stessa reazione. Si misero a marciare per le strade cantando a squarciagola «All you need is love».